io sono Giuseppe Sebastiano. Ho voluto portare una filastrocca, una poesia che ho scritto io, appunto riguardo a Borgo Sacro, alle esperienze. Allora, ho scelto l'impaginazione del fatto del bruciare la pergamena, della lettera grande e del, diciamo, simbolo in fondo, perché Borgo Sacro appunto mi ha ricordato qualcosa di più vecchio di dove viviamo noi, e quindi questi particolari mi ricordavano, per esempio, i libri vecchi, un po' rovinati, quindi ho voluto un attimo rappresentarli. E niente, e la poesia parla un po' appunto dell'esperienza, di cosa abbiamo visitato. Cioè, adesso la leggo. Allora, la freschezza del risveglio a Borgo Sacco l'ho sentita. E che già alle 8 del mattino era pieno di vita. I rombi delle auto e il battere dei martelli coprivano quei suoni silenziosi che tanto erano belli. In giro per le vie noi ragazzi tanta gente abbiamo intervistato, tutta quella che ha sempre meritato attenzioni. Raccogliendo molte foto e molte registrazioni abbiamo ricevuto delle enormi soddisfazioni. Gli uccellini, il vento e lo scorrere delle limpide acque si sono potuti sentire laddove tutto il mondo tacque. Molti anziani ci hanno potuto raccontare le loro storie, così da rinfrescare nei giovani le novelle memorie. Ho imparato ad andare avanti alzando il mento e ad essere più attento a tutto quello che non sento. Non so, mi sembrava una cosa diversa, perché tutti i professori, quando facciamo dei lavori, ci chiedono di disegnare. Qua c'era un tema libero, quindi ho voluto un po' cambiare il fatto. Quindi ha colpito la situazione ambientale, diciamo, diciamo, degli incontri che abbiamo fatto, delle Sì, mi è uscite. piaciuto molto di più le interviste invece che le prime registrazioni in giro. Siccome, cioè, io la vedo nel senso che, siccome sono storie, ci fanno tornare al nostro passato.